Dio, tu sarai il mio popolo, se tu mi amerai, tutto il cuore mio sarai. Scogitare il male, dire ciò che è falso, né agire per impulso. Ma tu non bestemmiare, santifica il mio giorno, onora padre e madre, non ti prostituire. Nella tua casa ospiterai lo straniero, al tuo paese faticherai la povertà. Nella mia casa accoglierò il forestiero, dal mio paese io toglierò l'iniquità. E che io, ecco lui che sarà, è Dio dall'eternità, che ella non ti abbandonerà, che ella è chi ti salverà. Che ella è chi ti salverà.